6. Ascolta e controlla. 1. Chi sono? Sono Alberto e Piero. 2. Che cosa è? È un biglietto. 3. Dove siete? Siamo in treno. 4. Quando siete a Firenze? Adesso siamo a Firenze.